Ragazzi, bentornati a questa nuova puntata della cena dei Regini. Parleremo del mercato calcistico della Regina per il 2015, notizia importantissima. Ah? Regina, ho fatto una cosa, una gaffe terribile. Bentornati, ilback.it, per guardare questa puntata che già lo stai facendo o ascoltare anche quelle precedenti, lei può trovare di tutto, contattarci, c'è anche il back.it per commentare questa puntata assieme. Iniziamo subito con quella che è stata questa settimana a Laos. Ma prima, ragazzi, un ringraziamento particolare, veramente particolare. È uscito un articolo molto importante per noi, sì, su una famosa testata giornalistica online, GDR Italia. E ragazzi, lo possiamo dire, il GRV in Calabria ha un nome, e quel nome è Ars. Siamo chiamati a rappresentare la Calabria all'interno dello scenario del GRV italiano, ragazzi, pensate voi. Questo è un ringraziamento che va soprattutto a chi ha collaborato, a chi ha nastrato in questi anni, in questi lunghi anni, a chi ha nastrato spade, a chi ha collaborato, a chi ha scritto, a chi mi ha aiutato a scrivere sceneggiatura, a chi mi ha aiutato a quelli che le case farmaceutiche che ci hanno venduto l'aspirina, e ce l'ho, perché non si sa, e poi soprattutto a quelli che hanno partecipato agli eventi che sono stati nei lunghi anni tantissimi, in ogni ambientazione, perché abbiamo visitato un po' tutte le aree. Abbiamo visitato negli anni 90, abbiamo preso praticamente quasi tutto. E poi, tra l'altro, anche grazie a chi ha ospitato, cioè chi si è ritrovato nel salotto una sessione di Ars quando facciamo le sessioni in giro, eccetera. E ragazzi, presto torneremo in giro nelle piazze, nelle strade e via dicendo, a diffondere ulteriormente questo verbo. Cosa è successo inoltre questa settimana, importantissima settimana, con il live di Camelot, quindi live in ambientazione medievale fantasy. Ci siamo riuniti qui, ognuno aveva il suo personaggio e l'ha interpretato all'interno della fantastica città di Camelot. La città è stata toccata da diversi eventi ultimamente. È venuto anche un console da parte di Mago Merlino che ci ha messo un pochino di intenzione. Cioè, ragazzi, siamo passati dal ragazzo che comunque si sta per trasformare in drago al console che è venuto a visitare e dare un giudizio su tutte le gilde. Quello che loro non sanno è che questo giudizio avrà dei riferimenti in gioco. Io non voglio dire, però i voti erano abbastanza bassi, ragazzi. C'è da migliorare, perché comunque ha dovuto giudicare le gilde in base alla lealtà dell'Accademia dei Cavalieri. La lealtà dell'Accademia dei Cavalieri va bene, l'ospitalità della gilda della Compagnia dei Bardi. E là comunque devo dire c'è stata un po' di spettacolini, sì, hanno fatto delle cose. È la saggezza della Gilda dei Maghi, e quindi comunque ci sono stati questi dialoghi, questi incontri. Non era l'unico personaggio che ha fatto una cosa del genere in gioco, ci sono state anche altre cose, altre situazioni che avranno riscontro nel gioco più in là, perché ogni settimana noi organizziamo questo evento, quindi una cenetta in tema medievale con questa serata assieme di improvvisazione. Luca, ogni mese, ogni settimana c'è la cena, basta così. No, tranquilli, è vero, ma diventare la giornata più bella. Tranquillizziamo Pino, il mio medico, a posto Pino, a posto Pino, tranquillo. Io infatti sono rimasto tipo ogni settimana, che devo dire una cosa, cosa? Ma ragazzi, parliamo dell'esperienza del gioco di ruolo dal vivo. Ti sei divertito, hai fatto meraviglioso, una cosa indescrivibile, pensando uscire dalla porta e ritrovarsi davanti 5 persone che ti vogliono spaccare. Che bello, che ti hanno spaccato. Io ho ucciso qualcuno, e c'era anch'io, se qualcuno me lo vuole chiedere. Certo, ragazzi, questa è l'unica a uccidere in quel caso. Ma dateci le vostre opinioni, visto che sono giocatori nuovi che hanno iniziato adesso, anche Valeria. Sì, io mi sono divertita, ho ucciso qualcuno che aveva le sembianze, credo, di Andrea. No, è stato divertente. Bello, all'inizio bello. È strano interpretare qualcun altro perché non sapevo come muovermi, però insomma, però poi alla fine sono stati bravissimi, sono facilissimi, no? Che comunque chi entra in gioco viene un po' aiutato, instradato, sì, e poi sì, comunque sì, è una cosa automatica che viene da sola. Ragazzi, a proposito di Ars, finisce il workaround 2014, quindi se avevi pronta la letterina eccetera, conservala per il 2015 assolutamente, perché inizia questa consultazione, questo periodo in cui è importante rivedere i manuali, cioè ci sarà una riorganizzazione anche stilistica, informativa dei manuali, migliorare un po' tutti quelli che sono i manuali di gioco dell'Ars, perché uno deve arrivare sul sito, poter scaricare il suo regolamento e giocare liberamente, però in maniera più agevole. Ora rivedremo un po' tutto, quindi saranno settimane ancora molto intense. Aggiungeremo nuove ambientazioni, nuove espansioni del regolamento, avventure a perdere, ci sarà di tutto. L'Ars non si ferma mai. Beh, questo l'Ars non si ferma mai. E infine una nota, perché durante il Towel Day abbiamo mangiato anche da Douglas Adams, abbiamo portato avanti questa iniziativa, sì, per questo famoso scrittore americano, l'autore di Gli Autostoppisti, e quindi Douglas, anche tu meriteresti un posto all'interno della cena, lui si scialerebbe qua, sarebbe uno dei nostri. Ragazzi, asciugamano e ho fatto braccio. Ovviamente asciugamano e via. Ragazzi, noi torniamo ad un piccolo spazio musicale. L'ospite di questa sera chi sarà? Scoprilo tra poco e noi torniamo subito. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, la cena dei regini, torniamo assieme con l'ospite di questa settimana. Chi è l'ospite di questa settimana? Lo introduce Panda. Esatto, perché loro si chiamano Nuclear Detonation. E quindi il silenzio, bravissimo Pando, interpretava il silenzio dopo la... Bravissimo, vengono da Reggio Calabria, abbiamo intervistati alla fine la serata metallare. Adesso ci becchiamo questo video, ragazzi, tra l'altro sono di Reggio, quindi bisogna anche foraggiare i reggini. Nuclear Detonation, vai col video. Ragazzi, bentornati alla cena dei reggini. Parliamo adesso con i Nuclear Detonation, una band giovanissima formata nel 2012 ma già pronta al suo primo lavoro discografico. Ragazzi, parliamo insieme dei Nuclear Detonation, una piccola descrizione della band e della vostra musica. Ci siamo. Bene, noi siamo nati nel 2012 da una mia idea. Sono Luca, cantante e chitarrista del gruppo. Avevo l'intenzione comunque di esprimere i miei sentimenti, quindi la mia rabbia, qualunque tipo di sentimento attraverso questo veicolo che è la musica. Il mio genere preferito è appunto il thrash, e così nasce il nome Nuclear Detonation e il tipo di musica. Il gruppo ha avuto un po', diciamo, un'esistenza travagliata. Se non sbaglio abbiamo cambiato 13 componenti nell'arco di 2 anni. Un esercito. È un po' sì. Diciamo, diciamo, lo so raga, però diciamo che come una fidanzata che non va bene, magari anche il componente di un gruppo può non andare. Certo. Adesso però con l'entrata dei ragazzi, Pippo Chiuto alla batteria, Emanuele Merlo chitarra solista e Andrea Pulvidenti al basso, sembra che le cose stiano filando bene. Difatti siamo vicini alla pubblicazione del nostro primo lavoro in studio. Iniziamo intanto con chi ci sta seguendo. Diamo un riferimento internet dove trovarvi sul web per scoprire un po' di più di voi. Perfetto. Ci potete trovare facilmente su Facebook cliccando sulla pagina Nuclear Detonation, detonazione nucleare, e magari mettendo pure un mi piace, così seguite tutte le nostre vicissitudini, va? I nostri guai, le nostre cazzate, un po' tutto. Si può dire cazzate? Si può dire. Ah, perfetto. Abbiamo sentito anche di peggio in questa trasmissione. Ah, sì? Un giorno che dirà. Ottimo! Ad ogni modo, poi c'è il canale YouTube, sempre Nuclear Detonation, oppure se vi va potete mettere mi piace sulla pagina Facebook della nostra casa discografica, la Senseless Life Records. Esatto, perché il gruppo è recentemente nuovo, però comunque già, è già approdata all'accordo con un'etichetta discografica. Che importanza ha avuto questo evento e che importanza ha per l'artista il sistema discografico? Bene, guarda, dal mio punto di vista, dal mio personalissimo parere, la maggior parte delle etichette discografiche, anche parlando delle indipendenti di questo periodo, peccano un po' di correttezza. Molte di queste si fanno pagare per una produzione, anche per, cioè, quella qualsiasi, anche per la stampa del disco fanno pagare. E i dischi non è che ti arrivano, fanno pagare la stampa del disco, poi loro distribuiscono il disco e poi magari a te vengono 70-80 centesimi a copia. È una cosa davvero, davvero ridicola, nel senso, loro si fanno i soldi con la tua musica, tra l'altro tu li paghi per farsi i soldi con la tua musica, è proprio un paradosso, no? E infatti abbiamo rifiutato pure un paio di offerte da alcune di queste case discografiche un po', chiamiamoli, imbroglioni, no? C'è chi diceva, sì, beh, ti produciamo 150 euro al mese per 2 anni. Ah, sti cazzi, mi compro la macchina. Che cazzo vedi in testa, no? Quindi è un ambiente un po' particolare, diciamo, ancora da definire. E a noi è andata bene, in quanto la Senseless Life Records ci ha proposto di entrare nel suo roster e non appena la casa discografica è stata fondata, grazie al singolo Down to Hell, prodotto proprio qui, da Teresa. Con Teresa ed Enzo Rotondaro, batterista di Glacial Fear, bassista nei Donatori di Organo, un grandissimo ragazzo. E grazie anche a questo singolo, ripeto, Down to Hell, la Senseless Life Records ci ha avanzato questa proposta. E il contratto è ottimo, ovviamente noi non sborsiamo una lira perché è così che si fa. Pippo è convocato, fuori dalle palle. Dai, non so fare che riprendiamo. Perché alla fine è così che si fa, non, cioè, noi facciamo far soldi sì alla casa discografica con la nostra musica, però le royalties vanno pure a noi. Certo. È tutto qui, la casa discografica è corretta, noi siamo corretti con lei e Yin e Yang sono bilanciati. Il vostro gruppo nasce e cresce nella scena reggina, come la vedete voi, come la vedete dal vostro punto di vista e cosa manca per aiutare le nuove realtà, le nuove band a crescere? Beh, iniziamo a dire che intanto a Reggio Calabria il metal è un po' associato, sai com'è? Satana, no? Oppure casino. Beh, che so, va, è come se vado ad ascoltare un gruppo che fa pop rock e lo associo. Chi era quello lì che è stato accusato di pedofilia? Quello di Modà. Un componente di Modà dice: ok, io vado ad ascoltare un progetto. Il fonico di Modà, no? Che forse è stato l'ex chitarrista, una cosa. Vado ad ascoltare un progetto pop rock. No, che cazzo, qua sono tutti pedofili, no, vado via. siamo pazzi. A Reggio intanto è da aggiustare un po' con una chiave inglese, magari data proprio sulla testa, la mentalità reggina, no? Un po' tutto questo. E poi, come diciamo prima, in sede privata, è proprio il posto dove suonare. Non c'è un posto dove suonare, a parte comunque sempre qui l'LM Studio di Teresa Mascena, una ragazza che ci ospita a casa sua, perché ragazzi, noi siamo qui a far casino, a fare heavy metal fino all'1:30 di notte e lei sta sopra, se magari vuol riposare, no? Ci sono i ragazzi sotto che fa un po' di casino, no? Quindi solidarietà anche a Teresa e alla sua esperienza, no, artistica. Grazie a Teresa, a parte che è un'artista affermata, è una grandissima ragazza, ci permette di sfogare, cioè di esprimere la nostra musica, no? Sono bellissime realtà reggine. La domanda che faccio a tutti i miei ospiti alla fine, quella finale, quella più, diciamo, significativa: i Nuclear Detonation, sindaco per un giorno di una città, magari voi potete immaginare anche sindaco di Reggio Calabria per un giorno, anche se in questo periodo è una posizione abbastanza scomoda, cosa fareste, cosa attuereste subito per risollevare le sorti di questa città nelle vostre mani? Oh, è dura, Guarda. Ma va, ho più capelli bianchi io e ne ho anche di meno. La cultura. Reggio, come ormai in Italia, che una volta fu la culla della cultura, adesso proprio se ci siamo rimasti lì, no? Siamo rimasti i bambini. E Reggio penso sia proprio la cartina al tornasole di questa Italia. Ci si ferma al Grande Fratello, ci si ferma al Jersey Shore, E poi magari dici, chi è Platone? Ah, quello è il numero 10 del Cagliari. No, no, un attimo, mi sa che stai sbagliando. Ecco, bisognerebbe pensare già a coltivare questa cultura come fosse una pianta. La cultura può essere espressa con la musica, la letteratura, tutto il resto, ma che so, anche lo sport può essere una questione di cultura. Come dicevamo prima, io ex nazionale di atletica leggera, ora mi vedo il CONI di Reggio chiudere. Senza una situazione motivo. Critica che si è creata in questi giorni, dove la struttura è destinata a chiudere. È ridicolo, davvero, anche perché chiudono per i bagni. Cioè, i bagni sono perfetti, non sono rotti e funzionano, solo che non sono sanificati. Falli sanificare e riapri il campo. Parlo di questo perché comunque vorrei fare un parallelo fra musica e sport. Sono due, forse, gli unici linguaggi universali, no? E quando stai in mezzo a un concerto, ascolti una band che ti piace, con il ragazzo o la ragazza che stai accanto, non ti viene di dare del lei. Gli hai subito del tu, prendi subito di confidenza. Magari ci puoi pure, sembra un bel ragazzo bello grosso e non è una ragazza, no? Prendi subito di confidenza, questo è un bel linguaggio. Lo sport è uguale. Dipende questa anche dalla ragazza, questa fratellanza, ragazzo, diciamo. Se viene a pogare tu con me, mazzo, lo faremo. Cioè, lo abbiamo tre gruppi per pogare. Dopo noi, e stesso con per quanto riguarda lo sport. Finisci una gara, magari non ti conosci, ma ti dai già del tu, cioè, ti presenti, tutto il resto. C'è questa. C'è questo tipo di. Attenzione. C'è questo tipo di fratellanza che si instaura dopo una gara. Prima della gara, ovviamente in quei secondi della gara sei anche un po' in attrito, però concentrato, però. Dopo, prima della gara, sei amico dei tuoi avversari, anche di persone che non hai mai conosciuto. Ci fai subito amicizia, perché sport e musica sono due dei linguaggi più universali a questo mondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro io nella struttura l'Auso Bacco ospito anche questi concerti e ho visto proprio questa grande fratellanza che unisce gli artisti. Cioè, tu li immagini da casa tua, chissà come, minacciosi, eccetera, poi si incontrano e sono ragazzi che si abbracciano, che ti danno una mano se devi portare qualcosa, e questo è bellissimo. Ma comunque, ragazzi, loro sono in Nuclear Detonation, li potete trovare sui vari social ai loro recapiti internet, e noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. You got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. And a boy that just won't fight. Baby, it's a grind. And this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. Thank you. Ragazzi, la cena dei regini, l'angolo caldissimo, caldissimo per te che sei in ufficio e ti stai rilassando, vuoi però avere uno spazio, una finestra informativa sul mondo, notizie fondamentali che noi troviamo le più strane sul web e te le proponiamo coi nostri audaci commenti. Iniziamo da una Marcord, è successo addirittura nel 67, il 10 giugno del 67, assoverato, arriva in stazione una persona che afferma di aver visto un fantasma. Ed è vero, tra le 3 e le 4 del mattino, questa persona viaggiando sulla strada di Soverato, questa stradina, immaginiamo, di campagna scura così, eccetera, vede spiccarsi una figura eterea nell'aria. Non per nulla, in verità, era il cattivo scherzo di alcuni ragazzi, alcuni studenti dell'epoca del liceo scientifico, che avevano scoperto che sistemando questa, una tunica che avevano loro di un materiale particolare, si aveva questo effetto. Allora, uno dei loro amici si è piazzato là sopra, l'altro lo illuminava da sotto per dare questo effetto così. Un contadino che andava a terrare i campi ha visto questa cosa e si è impressionato tanto da chiamare i carabinieri. Pensate voi che comunque questa storia ha viaggiato anche nella leggenda metropolitana di Soverato ed è arrivata fino adesso all'era di internet. Famosa fu la serie in cui dissero: facciamo un altro scherzo e andiamo a dormire. Peccato che erano i carabinieri che venivano ad arrestarli e li hanno portati in prigione. Caserma, panda, che mi fai dire? Guarda. In caverna, non si sa mai. Però dai, in caserma per uno scherzo del genere. E finirono sulla Gazzetta del Sud, audaci, proprio speranzosi di questo futuro radioso che li aspettava. Avevano preso anche di mira per un certo periodo i pesci vendoli in particolare, che facevano quella stradina per andare a vendere il pesce. Quindi comunque, pensate, questa storia del 67, è arrivata fino ad ora. Questo scherzo. Adesso che si fa come scherzo? Uno scherzo che si fa? Le cacche finte sul bordo del cesso. Ad esempio. Poi? Si va a vedere un video al computer e poi va a vedere un video. Oppure uno scherzo che si fa? C'è quello devastante della torta bambina dell'ascensore. La bambina dell'ascensore. Io mi avvicino al sacchetto di cacca davanti alle porte. Vedo che lei... Personalmente mi avvicino direttamente alla vittima e la faccio spaventare nel modo più terribile. Esatto. Venga, appunto, vedi. E finora ha sempre avuto successo. Anche ci mettono un po' a capire i miei input, però alla fine riescono, ragazzi, a volte la fantasia supera la realtà. Succede in America, dove alcune persone intervistate hanno dichiarato, cioè hanno seri dubbi sulla reale esistenza di Godzilla. Cioè, nel senso, questo intervistatore americano ha proposto la storia di Godzilla come se fosse vera, e queste persone effettivamente credevano che Godzilla fosse vero. Cioè, come a dire, ti avvicino sul corso a dirti: ma sai, pensa, cosa ne pensi di quel terribile lucertolone che ha attaccato Tokyo, l'ha distrutto anni fa, adesso? No! Sì, è stato terribile. E se arriva qua? Pensa tu, è terribile, bisogna fare qualcosa. Addirittura una di queste persone ha aggiunto: sì, perché dobbiamo fare tutto quello che possiamo per difendere il nostro paese. Che sono americani, quindi immagino che parlassero di bombe atomiche. È ovvio. Assolutamente. Ragazzi, Godzilla, il famoso lucertolone che sta terrorizzando Tokyo, cosa ne pensate voi? Secondo me bisogna mettergli i sigaretti sotto i piedi. Gli diamo da mangiare Berlusconi, forse. Gli diamo da mangiare Berlusconi. Perché poi ti spiego, quando gli metti i sigaretti sotto il piede e tu poi li nascosto ovviamente, poi vai a toglierglielo, lui pensa: minchia, ma è salvato la vita questo tizio, e quindi diventa il tuo lucertolone. Ah, la vecchia storia, dai. La voleva prendere più non la prende più sul filosofico fiabesco, e quindi perché no? È contro Godzilla. Non lo so, offriamogli Berlusconi oppure pizza. Ma chi muore? Cioè, gli male lo stomaco. La pizza. Ma chi se ne frega? Povero Godzilla. Ma se ci liberiamo noi? Pizza e mandolini così, un po' di mafiosi. Godzilla, che ha fatto? Tanto una pietra così dolce. Bella. Però il film è brutto. Il film è bello. È bellissimo. Piano che attenti. Non aiziamo alcune ricordi che possono essere... che possono essere pericolose. Ad esempio, una ricercatrice americana afferma, dopo una penso anche breve ricerca, i selfie distruggono i ricordi. Perché? Perché si è talmente preoccupati a cercare l'inquadratura perfetta. Mi posta in là e guardi il bagno, che non pensi a viverti l'attimo. Però comunque rispetto, che ti devi vivere rispetto alle famose foto che si faceva in bagno, che comunque abbiamo conosciuto tutte le piastrelle dei bagni, forse comunque che dici, siamo, migliorati. Ormai, siamo migliorati, ormai almeno non vedi il bagno. Ma questo discorso potrebbe anche allargarsi alla fotografia in generale. Diciamo che succede evoluzione del degrado, tantissime foto senza poi stare guardare veramente la cosa che certo sta... Perché tu non ti vivi l'attimo, non ti vivi il momento, però pensi là a fare l'inquadratura per Instagram perfetta, eccetera. Ti è capitato anche a te, immagino. Buck, sei zitto. Buck, è il tuo problema. No, ormai ho superato. Ma ragazzi, le selfie che distruggono i ricordi, ma i ricordi anche piacevoli possono essere legati agli animali domestici. Perché tu l'addestri, cioè un gatto, cosa l'addestri a fare un gatto? Ma non rompe mille. Siete volgari a questa cena, perché cosa c'era? Volgarità in questo cibo? Dai Panda, un gatto cosa si addestra a fare? C'era un solo a mangiare le lucertoline. Cioè tu non è che mandi sera per risolvere male il problema di Godzilla. Per il mega gatto. Ma finiamo di parlare di cacca, per favore. Non lo so, perché non ho grazie animali, non posso... A giocare col gomitolo di lana. Ma tu un gattino da destra a mangiare i topolini, no? Le lucertole. Che cacca c'ha a fare le lucertole? Non lo so, io parto dal fatto che non ho animali, non lo so. Sì, ma la lucertola sta lì e fissa il vuoto, un topo ti va a mangiare le cose. È difficile addestrare. Non sono come i cani. Però, è difficile. Conviene adattarsi tu al cane. Esatto, ma pensate voi, è successo in Nuova Zelanda, questo proprietario di gattino stava là a casa, a un certo punto ogni tanto il gatto sparisce, cioè ha questa sua indipendenza che lo porta via. Questo gattino neozelandese è tornato a casa con una bustina di marijuana in bocca. Quindi pensa tu, cioè gli è tornato con l'erba in bocca e gliel'ha portata là. Fantastico, tanto che la polizia neanche è riuscita a capire, a risalire al proprietario della bustina, e pare che fosse una F, forse si è confusa. Cioè, questo gatto della Marcos con la divisa militare messicana, il furgoncino, arriva a casa, arriva di droga dietro. Sofì? Vediamo se anche lei. Però pensa, il gatto ti porta a casa, non il topo. Non e alla fine la bustina ti sente. La polizia, ovviamente, andava la polizia, altrimenti non avremmo mai letto questa notizia. Cioè, che il gatto era così felice del proprio padrone che ha preso un topo, andato a pagare lo spacciatore, gli ha portato la... Può essere anche questo. Dobbiamo mandargli un'email alla polizia, perché può essere successo anche questo, ragazzi. È lo stesso gatto, magari, che ha comprato. Ragazzi, ma si dice sempre che sono animali indipendenti. Che sei tanto indipendente che ha scelto pure la... Stava passando il periodo ad un'esceriale. Diciamo che è un altro tipo di dipendenza. Ognuna la sua dipendenza. Panda, difficilissimo il momento, mentre i gatti hanno la vita comunque tranquilla, segnata dal padrone, difficile il momento per trovare lavoro. Per trovare lavoro, come si suol dire, il lavoro bisogna inventarselo, no? Cioè si dice, ti devi inventare il lavoro. Un lavoro che si può inventare, ad esempio, è l'imboccatore di patatine. Fare il servitore di patatine. Oppure il tosatore di pecore. Tosatore di pelle. Quello è un lavoro. Ma pensate che un tale Xie Shuping, il che ci introduce al fatto che è orientale, il che ci introduce al fatto che bisogna prestare particolare attenzione a questa notizia, si è inventato un lavoro molto particolare. Lui fa l'uomo punchball, vive facendosi prendere a pugni. Cioè, che vuol dire? È masochista il tipo. Peggio, perché lui ha intercettato questa usanza dei paesi asiatici, in particolare, di scatenare risse all'interno dei locali. E quindi comunque dice, visto che c'è molta di questa richiesta di persone da picchiare, io mi propongo per essere picchiato. E lui si fa dare ben 3 pugni sulla pancia a chiunque gli dà del denaro in cambio. Da lontano 2004, quindi anche una certa esperienza nel campo. Diverse costole rotte. Una nuova forma di, come dire, vendere il proprio corpo. Quando andiamo a trovarlo? Sta benissimo, ragazzi, questo tizio con questa fesseria guadagna 3.500 dollari al mese, quindi fa anche dollari, lo sapete, nei paesi orientali, dove comunque vuol dire anche una bella cifra, perché comunque lui si è inventato questo lavoro, quindi pensiamoci, no? Immagino che il cellulare che squilla, ciao, oggi vuoi farti picchiare dal 1 alle 3? Ok, ci vediamo dopo. Ragazzi, il lavoro è una storia molto particolare, molto difficile. Ne sa qualcosa il cosiddetto maresciallo rockstar, del quale ovviamente non facciamo il nome perché ancora ci sono delle situazioni che stanno cercando di risolvere. Lui è un maresciallo dei carabinieri che ha iniziato una promettente carriera nel mondo della musica, è diventato una rockstar, ha inciso, ha preparato anche qualche disco e ha fatto i suoi primi video. Non fosse che poi si è scoperto, almeno diciamo che c'è la pia illusione, la pia il pio sospetto, che utilizzasse per finanziarsi tour, registrazione eccetera, i soldi delle pensioni dei suoi sottoposti all'interno dei carabinieri. Quindi questo qua diceva, grazie alla complicità di un suo amico commercialista, diceva: tranquillo carabiniere amico, ci penso io, si fregava i soldi e stava iniziando a fare, non so, i concertini in Svizzera anziché in Danimarca, oppure registrava dei video. Ed è particolare il fatto che questo tizio ha questa carriera parallela da pseudo rockstar di YouTube, io non lo conoscevo, diciamo il nome perché ancora è una cosa in corso, però comunque cioè non mi sembra molto preparato, però ha fatto questa cosa sui soldi dei contribuenti. Sono rimasto senza parole. Pensa tu. Cioè, vabbè, c'è da dire che è riuscito a passare, cioè è stato furbo per un certo modo di dire, però comunque non si fa. No, ma è vero, non si fa, ragazzi, cioè, se devi rubare i soldi rubati per bene, fatti fare una plastica facciale. Sì, vademecum. Andrea, fagli una chiamata che forse lo prendono negli atroci. no, ma no, fidati, no. Una cosa del genere, secondo me. No, no, no, più atroci degli atroci. Appunto, è molto più. È più atroci, ma ragazzi, per un affare che comunque è un po', diciamo, perverso, ce n'è uno che è assolutamente limpido, ma molto misterioso. In eBay si trova veramente di tutto, abbiamo scoperto anche l'altra volta. Questo articolo è molto particolare, è la parola più usata, penso, nel gergo inglese, ovviamente sì, anche americano, è la parola the, come si dice? The. Esatto, the. Questa parola è all'asta su eBay, la potrete comprare, è incredibile, si può comprare all'asta su eBay la parola The. Ha ricevuto già un sacco di richieste, più che altro. Questo ragazzo che comunque ha scritto The essenzialmente su un pezzo di carta con una penna blu, un utente australiano nel sito l'ha messo in vendita su eBay e sta spopolando. Ma non è in italiano, no, ma soprattutto, ma chi se ne può, il problema non è che lui che scrive, ma sono gli sciroccati che se le comprano, soprattutto perché se io domani scrivo ma lui ha spiegato, gli sciroccati abbastanza intelligenti da comprarsi anche le nostre che faremo in tante ma lui ha spiegato, è partito da 99 centesimi, è già superato i 26 e passa dollari per questo pezzettino di carta, e poi ha spiegato che è una parola importante perché è ideale per ogni situazione, quindi la incastri ovunque, perché non portarsela dietro comodamente. E io ho qualcosa da sé. Poi ti compri l'attestato che la parola D è tua, e ogni volta che qualcuno scrive D deve pagarti le royalty. Invece certo. Scambio su eBay, quello che invece aveva messo all'asta la sua anima. Sì, ma anni fa. C'era quello che aveva messo la sua fidanzata su eBay. C'era un bambino che aveva messo su eBay sua nonna. Dilettanti, ragazzi. Ha messo 5 euro. sì. La 5 euro che prende l'ha messa all'asta 5.000 euro tipo è arrivata a 5 esorbitanti. Io sapevo della gomma masticata da Britney Spears che arrivò a prezzi esorbitanti praticamente per la gomma masticata. C'è del DNA importante, quindi ragazzi ci avviciniamo alla zona calda delle notizie, ma prima una notizia diciamo un po' tiepida. Si parla di Baywatch, famoso telefilm, famosissimo telefilm degli anni 90, guarda, tutti ridono perché tutti maschi, c'erano delle ragioni importanti per vedere Baywatch, tutti erano così e poi Baywatch perché che è? Cos'è questa? La prima scuola. Aspettate, ma la prima immagine, la prima scena, la prima immagine che vi viene in mente pensando a Baywatch, qual è? È la stessa persona. Diteci, cos'è la cosa tipica di Baywatch? Cosa? Che corre? Le tavole da surf. Pamela Anderson che corre. Diciamo la zona da subito sotto la testa del dico di Pamela Anderson. Una riferita. Il coso, il galleggiante. Quel galleggiante osceno, il pasticcone. Ma ragazzi, David Hasselhoff ha stroncato il mito di Baywatch, perché comunque si sa che all'inizio la serie non andò benissimo, fu un flop pazzesco. Lui poi ne è diventato il produttore e l'ha portata allo splendore che poi è durato un sacco di anni. E lui dice in realtà quelle corse a rallenti che si vedono e che sono proprio il simbolo della serie, dice, non furono girate per una cosa particolare, ma perché non c'erano i soldi per girare altre scene da montare nella sigla. E a lui è venuta in mente questa idea. Cioè, come dire, abbiamo inquadrato la barca, il tizio che si butta dalla barca è un elicottero, sì. Non abbiamo la scena per fare vedere anche, non abbiamo i soldi per fare vedere anche l'auto, la casa e la fidanzata del tizio, allora facciamo vedere loro che corrono ma lentissimo, così prendono tutto il tempo della sigla lunghissima, così. E ha funzionato, è diventato il marchio di Baywatch, assieme al sedere dell'Anderson. Bisogna... Pensate ragazzi, quindi quell'intro che ha segnato l'adolescenza di milioni di italiani e non solo, era in realtà una maniera per risparmiare il cash, danaro. Ragazzi, bollino rosso, notizie veramente un po' particolari, diciamo un po' hard, piccantelle prese dal mondo. Esatto, questo è il bollino rosso. Il bollino rosso calabrese. Abbiamo ospite questa sera, il bollino rosso, è venuto a trovarci e ce l'abbiamo qua. Innanzitutto le grandi idee di un famoso sito di hard americano che ha avuto questa settimana due importantissime iniziative che rischiano di cambiare anche l'economia mondiale. Addirittura. Ragazzi, la prima idea del sito, si può dire Pornhub, perché è talmente famoso, pure lui annuisce. Quindi. La prima è il fatto che questo sito ha messo ha lanciato online un concorso per... assegnare il contratto di un anno, quindi il lavoro per un anno all'interno del sito, a chi avesse realizzato la migliore pubblicità del sito stesso senza utilizzare volgarità. Ed è uscito alcune idee geniali, ad esempio una scena in cui c'è una, sempre stilizzate, una donna a sinistra, un uomo seduto a un computer a destra, semplicemente la scritta "cosa stai guardando?" e lui "niente". guarda come ridono, perché cioè il lato uomini che ride e il lato donne che giustamente il miglior sito di niente del mondo. Oppure ragazzi, questa è effettivamente la tendenza, potrebbe essere anche a contrario. Caspita. Oppure c'è questa immagine con due computer, uno che ha il mouse messo a sinistra, il mouse a destra, e l'altro col mouse messo a sinistra, e sotto c'è scritto "tu conosci la differenza". Sottile, arriva dopo un poco, ma arriva. Scusate, poi quando tu esci te lo spiego. Dopo, ragazzi dopo, ma soprattutto altra grande iniziativa, l'economia potrebbe essere sconvolta da questa iniziativa, il Titcoin, cioè la possibilità di pagare inquadrando il seno delle donne, che vuol dire che tu hai un negozio qualsiasi, puoi esporre, stampare ed esporre, affiliarti diciamo a questo sito ed esporre il loro logo, che rappresenta che accetti il cosiddetto Titcoin. La donna può andare in questo negozio, comprare quello che deve comprare, al momento di pagare, anziché pagare, ti può mostrare il seno e poi tu commerciante certifichi sul sito questo avvenuto scambio e loro ti pagano. Chissà se danzare funziona. ma puoi adottarlo per le prossime... Devi fare il video e darlo a loro e loro ti pagano per il video. Esatto. Oh, Da Foti funziona, da Armani funziona. Comunque avevo visto l'applicazione su Facebook oggi, tra le varie pubblicità. Guarda come già. No, avevo visto, sai che su Facebook c'è un periodo che fanno le pubblicità delle applicazioni, no? E c'è stata la Bitcoin, ho visto c'è la bambolina con le zizze giganti, tutto questo che sarà, però non ho sbirciato. Ed erano loro, sta avendo un certo successo. Ma potremmo farlo anche per gli eventi. Ci mettiamo d'accordo? Ci penserò, perché voglio dire, Pornhub paga per queste. Proprio questo lavoro, è della Bitcoin. Ragazzi, no che ci arrestano, però può essere una cosa particolare. La mia posizione sta diventando problematica. Molto. E poi ragazzi, per finire, ultima notizia, sono 5 oggetti che tutti abbiamo a casa che possono diventare, diciamo, allusivamente dei piccoli oggetti di piacere. Sono oggetti che abbiamo tutti a casa, che tutti possiamo utilizzare. Già ridono perché già per già dopo le esperienze delle famose spazzole, l'acca, vabbè, ci arriveremo anche a questo. La bottiglia dello shampoo. Ragazzi, una alla volta, perché qua tutti hanno delle idee, una alla volta. Iniziamo da quelle istituzionali. Allora, innanzitutto la cravatta, chi non ha mai utilizzato la cravatta per bendare, legare, tagliare, cucire? Ok. Io mai. Neanche. Io ho bisogno di impiccare qualcuno con la cravatta. Io le manette. Sfondo. Bello, tu già sul professore. No, ma sono oggetti che tutti hanno in casa, cioè, perché se tu ti prepari la cosuccia non è la cosa. Però la cravatta comunque sì, c'ha questo uso. Tra l'altro è molto, molto utilizzata da questo punto di vista, perché anche è setosa, è bella al tatto e quindi viene molto utilizzata per questa cosa. Ragazzi, andiamo avanti, e questa è scottante. Le candele. Le candele fanno atmosfera. Sono romane. Solo per l'atmosfera, Bacchio. Cosa avevi capito? Fanno atmosfera. Vabbè, ma che vanno pensando? Che so, ma perché siete così? Ma dopo 15 anni bruciate le case. Ma ragazzi. E in più la cera si usa per fare certi giochini che tu è meglio che non fai, però la ceretta e quant'altro si può utilizzare, ragazzi. In più, andando avanti, veramente sono oggetti molto particolari. La collana di perle. Lasciamo all'immaginazione. Andiamo avanti. No. Il pennello da trucco. Ragazzi, il pennello da trucco. Vedo già risposte. Tipo, ma come potrai? Puoi solleticare, puoi utilizzare, puoi. Il pennello da trucco ce l'hai sempre davanti e mai l'hai visto come ora, tu che stai perdendo la storia. Se tu vedi che no, al pennello cinghiale. Ma l'avevi visto così? Vuole un tante. Ma immagina quella ragazza che ascolta la cena, che guarda le sue cose di trucchi in un'altra maniera. Adesso sì. E poi ora ho capito perché ha tutte quelle iscrizioni, perché adesso ha spaccato. Ma comunque ragazzi, ultimo è qua. Non si può dire di noccia, voglio dire, è molto generica la definizione generica è gel stimolanti, nel senso, cosa vuol dire questo? Perché io me lo sono chiesto sempre, sei a casa, lei ha un dolorino, così è stesa sul divano, ed improvviso esce fuori il marito, la zonina. Ecco a cosa serviva quella pubblicità, perché questi gel possono essere utilizzati per accentuare certe situazioni, e quindi i gel stimolanti, ragazzi. Pensateci, segnate, comprate il Lasonil, comprate queste cose, mi raccomando. E quindi poi fate i vostri esperimenti a casa. Non stiamo assolutamente facendo pubblicità. Siete contenti? Volete no, suggerire no. Qualche altra cosa? Non lo so, no, un no, microfono. Sembra strano perché il Lasonil, cioè, è un antidolorifico, quindi dovrebbe teoricamente togliere sensibilità. E quindi? Suggerisci qualcos'altro? Cioè... dovrebbe essere usato. Beh, miele, Nutella, dai, le solite cose, diciamo. Ma di provola. Cosa? La provola. E mi faccio un puntino. Dopo la prova del fatto della spazzola e della lacca, c'è stata la provola. Ci vorrebbe tu bene, va bene. Ragazzi, la provola. Allora, noi lanciamo la provola. Se riuscite a capire come funziona, mandate un'email a cena@il.it. Non fatevi, non fatevi male. Non fatevi male. Era proprio quello, però quello è chiudiamo che poi. Ragazzi, noi torniamo subito dopo un piccolo spazio musicale. No, aspetta, è un oggetto con tutto. Ragazzi, la cena dei reggini, siamo tornati allo scottante angolo della classifica. L'hanno chiesto in tantissimi e in tantissime, visto che la settimana scorsa abbiamo affrontato il tema anche un po' scottante delle 10 piccole bugie che le donne inglesi dicono alle loro, ai loro compagni. Allora, questa settimana ci hanno chiesto comunque una, come si dice, un riscontro dal lato maschile. Quindi la classifica di questa settimana è le 10 bugie frequenti che dicono gli uomini secondo le donne. Secondo le donne. Secondo le donne, perché comunque bisogna. Allora, premesso che ci sono persone felicemente accoppiate, vogliamo che sia così anche alla fine di questa trasmissione. Già, la dice lunga il fatto che si sono divisi donne da un lato, uomini dall'altra, per fare capire quanta coesione c'è. No, ma c'è paura. C'è paura perché devo giustificare entrambi. Io faccio un po' da pacere tra le due cose, ragazzi. Iniziamo con la numero 10, mi raccomando. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Forti e decisi, compatti. Alla numero 10. No, non sei grassa. Quante volte ce lo siamo sentito dire, come dicono le donne, dopo aver provato l'ennesimo vestito per uscire la sera. Sembra che l'abito faccia i fianchi larghi, sembra che vedi intravedere qualche rotolino sulla pancia, ma il nostro amabile partner è pronto a giurare sulle tavole di Mosè che siamo magre come Grissi. Ragazzi, è giusto che sia così, perché ovvio, è una bugia detta a fin di bene, cioè, no? Sì, però se non sta male... A fin di bene per noi! Se non sta male, poi torna a casa... Non scappare, non scappare, torna qui! Che ti sei comprato? Che sei stato tu, Cattino, che mi stava bene, stava sbagliando! Quindi, quindi è meglio avere un riscontro... Cioè, è meglio dire la verità! No. Sì. Il problema è questo, se si dice che la ragazza... grassa è sbagliato. Se si dice che non è sbagliato comunque perché si capisce allora, che c'è una sottile vena ironica e quindi siete fottuti a ma tecnicamente è la verità, nel senso. Una alla volta, una alla volta. Se un vestito fa i fianchi larghi, vuol dire che il problema è sono i fianchi ad essere larghi. Quindi certo, tutti abbiando il vestito, gli altri rimangono larghi. Che bella il maschilismo fa esplodere la forchetta. Quindi tu dici, al di là di tutto, no, ci deve essere quel chiaro di lui. Fai i fianchi, ma sì, sono così, li fa anche l'altro, anche male, nel senso, cambiando vestito, quelli rimangono. Ah, quindi tu sei a favore della, dell'onestà di dire, sì, mi dispiace, sono ma... Sono così, non bisogna dire. Fantastico. Quindi, ragazzi, io sono contento perché abbiamo già trovato due validi escamotage per superare questa cosa. Quindi onestà, quindi il rapporto peso-altezza, quindi lavorare su questo... Un'altra cosa che è il modello che non è adatto. Ah, ah, quindi scaricare tutto sul vestito. Modello di vestito. Quello, ma quanto faccio da tenere dal bello? Perché c'è quel principiante, come si chiama? Armani, fa questi vestiti. No, ma c'è un'altra cosa, che sono a volte le donne a farsi male da sole. C'è stata una moda, che credo che sia ancora in vigore, che è quella della cintura sotto le tette. Non so, della cintura qua sotto. No, guarda, io che è orrenda e fa la pancia. Però la mettono per cancellare la pancia. Cioè, nel senso così tutte le donne hanno la pancia. Per valorizzare, e la pancia, per valorizzare il sangue. La cintura è una cosa. Cioè, già trovare qualche uomo che ti accompagna nei negozi. Ah. Ecco, per esempio Luca. No, ragazzi, qua apriamo un capitolo. Un capitolo vergognoso. Adesso mi dispiace, io odio andare a fare show. E noi lo facciamo per voi, bravissima, è il vostro momento, è il vostro momento. Ragazzi, io direi un applauso per queste ragazze. Quando devo fare qualcosa, vale, ragazzi. Le ragazze che non vogliono andare a fare qualcosa, faccio così, un modello nella testa, vado nel negozio, 5 minuti, vedo, se proprio devo farlo, indosso, provo e poi pago ed esco. Fantastico, ragazzi... Rilassiamoci, freniamo. Sapevo che sarebbe stata dura, quindi venitemi incontro anche voi. Quindi Luca, sistemati il divano, puoi sistemarlo già da... No, scherzo, andiamo avanti alla numero 9, perché ragazzi, e questa era solo la 10. Ma tu l'hai unito un'ora, vero? Riesci a cagarlo tutto. Io temo. Questo è un punto scottante. Sexy bar, io mai, perché davanti ai nostri commenti sdegnati a proposito del suo amico che ci ha candidamente confessato di essersi fatto il giro in uno di quei locali un po' strani, diciamo così, il vostro compagno non solo non c'è mai stato, secondo lui, ma non ci andrà mai fino alla fine dei suoi giorni, e condivide profondamente il vostro sdegno un po' femminista e ben pensante. Cioè, come a dire, sexy bar, inteso come locali un po' particolari, cioè quel locale magari dove c'è... Non è il reggio di questi problemi. Forse. Comunque come dire, sabato sera, serata trasgressiva, l'uomo ti dice: no, io mai, perché figure. Anzi, quell'amico che c'è andato, ma che mascalzone. E no, invece. Devo fare la voce fuori dal coro. Perché se il mio lui andasse, io non avrei problemi. Perché mi fido. Dai, che bello. Vedi? Andavo con. E beh, Luca! Applauso! Brava! Qua diciamo che qua abbiamo avuto nel 2007, diciamo, il test, la prova di come le coppie regine pro reagiscono. Mi ricordo, c'è stato, però il mio ex. Costava troppo, non sono ancora a posto. C'è stata. Ragazzi, spieghiamo, perché c'è stata una fiera, un evento di, comunque, diciamo, spettacoli erotici, e in quel momento misteriosamente Campo Calabro diventa il centro culturale. Il Massimo si toccò quando andava a chiedere il giro, ma sei andato noi? Io mai. No, io queste cose sono. E quindi vedi che comunque questa cosa corrisponde, cioè gli uomini dicono no, io mai, però poi tac. Certo, ma ragazzi, io su questo punto quindi mi sento comunque un po' più sollevato, perché non c'è stato niente di sconveniente, nessuna violenza, quindi passiamo subito al prossimo, prima che venga fuori qualche ricordo scottante. Va bene così, non uccidetevi. Alla numero 8 è qua. Ne parliamo dopo, la fisica frase, quando una situazione si fa spinosa. Voi siete molto irritate, comunque deluse, eccetera. Avete voglia di continuare la discussione per risolverla, ma per evitare esplosioni di rabbia, di collera, scenata, eccetera, c'è la ritirata strategica introdotta dalla tipica frase: ne parliamo dopo, dai. La uso anch'io, veramente io la usavo solo sempre io. Con il tuo lui, perché comunque volevi portartelo via senza che uccidesse nessuno. Io ce l'ho esatto contrario. Cioè, parliamone adesso. Che gli dicevi? Parliamone adesso. Noi dicevo: ma ti stai zitto un attimo e ne parliamo. Invece no. Vedi quali ti esempi. Stai zitto un attimo e ne parliamo. No, perché devi stare lì a urlare di cazzate. Ragazzi, allora, lo vedi, perché stiamo dando un esempio positivo, però col ti stai zitto un attimo non è cosa. Ma se io sto cercando di dire una cosa e tu mi fai l'offesa, te ne vai, mi urli sopra, che ti devo dire? Aspetta, ci arriveremo poi alla fine di questi punti. Alla fine di questi punti, cioè praticamente domattina, avrete la possibilità, anche se volete, di aggiungere frasi vostre. Ma intanto ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Frase, diciamo, usate ambi i sessi per cercare di stemperare una situazione. Alla numero 7, ragazzi, una dolcissima, secondo me, bugia. Quando lui ti guarda così in un momento magari di collera: ti ho mai detto che somigli tantissimo a Jennifer Lopez? Il grande complimento, allo stesso tempo, è grande bugia, perché comunque forse hanno notato che ti senti un po' giù, e per rincuorarti cerca di andare a trovare l'iperbole estetica. Io mi incazzerei, perché direi: io sono meglio di Jennifer. Orgoglio femminile, a casa, e perché comunque lei, giusto, cioè, ti senti più importante, diciamo. Con tutte le cose positive che una persona ha, che la tua fidanzata ha, vai, dire, sei proprio uguale a Jennifer Lopez. Ma sei come che ti dovrebbe, sei intelligente come, no, ma ah, la donna che non va bene, quello una di se stessa deve essere una, deve dire sei bella, sei bella, sei tranquillo. Come ma tu avete sbagliato comunque. No, ma cose semplici, non è che una va a cercare sei begli occhi di Angelina Jolie, se ne frega. Ma quindi è quello che ci interessa. Cioè la classica, invece, come si arriva a dover dire una frase di questa? Vabbè, perché c'è eventualmente, ma quindi la frase, la vecchia frase, che ne so, sei la lacrima che nasce e finisce. Meglio Jennifer Lopez. Cioè, voi volete la frase un po' stereotipata, sei bellissima, sei bella. No, bella. No, stereotipata, ma sei un di fatto, però una cosa che comunque, cioè, se stai con me lo fai perché evidentemente per te sono la più bella e deve essere questo. E basta, senza fare una bella bugia. Sei la più bella del mondo. Angelina Jolie, no, niente, comunque più brutta che me. No, ma loro non accettano i paragoni. Io sono contento quando finiamo un punto senza che ci sia nessun contuso nella saletta, quindi va bene così, va bene così, ne parliamo dopo, somiglia a Jennifer Lopez, senza comunque andare a cercare lo stereotipo femminile. Alla numero 6, ragazzi, e qua andiamo a toccare un argomento che è nel vivo della cena dei regini: mi piace la tua cucina. La cucina non ti è mai riuscito niente di più complicato di quello che è, può essere un uovo alla coq. Cucini male, te ne rendi conto, perseveri, perché vivi nell'idea che le donne siano tutte brave ai fornelli. La tua dolce metà però va ghiotta per questi tuoi preparati, e quindi ti dice comunque la tipica frase: mi piace la tua cucina, cucini benissimo, eccetera. Questa dolce bugia. Allora, io di questo problema non ne ho, ecco. Perché comunque, a parte che, no, lui è carinissimo, perché c'erano, cioè, i primi esperimenti sembravano veramente assurdi. Possiamo dire un esperimento che ricordate è particolarmente negativo. Allora, premesso che adesso cucina bene, assolutamente. No, no. Allora, mi ricordo che abbiamo fatto, ho fatto il riso al curry. Mi ricordo che quel riso era bruttissimo e che veramente poteva essere utilizzato. Ho detto a lui: non te lo mangiare, che lo possiamo usare domani per fare la casetta. Ti ricordo? Giusto. Leggo sulla sua faccia che ancora quel riso al curry. Non so se era vero o stava mentendo, non lo so, però comunque l'ho ringraziato comunque, perché no, Bibi, non ti preoccupare. Ce lo mangiamo domani, è buonissimo, guarda, ma tu che scomparve misteriosamente la notte. Perché era meglio incamerare subito anziché mangiarlo. No, non è vero, c'è lei che fissa. Oppure la pasta con la provola, tutta la pasta attaccata a questo pezzo di pollo. Poverina. E lui anche, cioè, ce lo siamo mangiati, se devo uccidere pure lui, cioè, lo uccido pure io. Però è stato carinissimo, perché lui mi ha detto: ma schifo, ma che fai? No, niente. Bella però questa affermazione d'amore: se devo uccidere lui, uccido anche me. Sì, questa, cioè. No, io la mia ragazza cucina benissimo. No, ma quando ho fatto le cose, quando no, quando fa una cosa che fa uno schifo, io sono il primo, io di averli. Ah, vedi, lui ha un senso critico che è importante. Se rimane male, però è vero. Perché non tocca, non pratica il fornello? Ma l'abbia di vita sua, cioè, chiediti se non sia meglio così, ma andiamo avanti. Io non lo so, quindi possiamo andare. Tutti che avete fatto oggi, niente, nessuna classifica. Ragazzi, alla numero 5, altro argomento scottantissimo, una frase detta milioni di volte nelle nostre vite. Le altre donne, e chi le guarda? Guarda, già c'è la risposta. Volete essere l'unico oggetto del desiderio del partner e volete che i suoi pensieri siano puri? No, io le guardo prima di lui, dico: guarda quale non sei arrivata al livello successivo, guardare gli occhi di lui per capire dove sta. No. Però ragazzi, no. No, Patrizio, ancora meglio, guardare prima verso la ragazza, poi con la coda dell'occhio guardare se lui guarda verso la ragazza. No, tra l'altro sono la persona più felice della terra. Perché ho vinto su tutti. Perché appena entra una ragazza bellissima, la prima a notarla è lei e me lo dice. E io così c'ho pure la scusa per guardarla. Cioè. Ok ragazzi, siamo alla numero 4. Patrizio, per te c'è quel divano pronto da sistemare. Alla numero 4 un argomento che mi risulta anche un po' particolare. Ricordiamo le bugie più dette dagli uomini secondo le donne. Alla numero 4 prendi pure il mio rasoio. Cioè capita una ceretta improvvisata prima di uscire e lui, per evitare discussioni inutili, ti lascerà utilizzare tranquillamente il suo rasoio per poi magari comunque risentirsi, però fa buon viso a cattivo gioco. Attenzione perché cioè hai usato un attimo e lui, ma sì tesoro. Cioè, a parte che con un rasoio per la barba una ragazza si strappa via la pelle, quindi... No, penso che siano addestrate, avranno il loro. Però, se vuoi uccidere una ragazza di sanguarda e dici, no, usa il mio rasoio. Esagerate, cioè, che sono... No, io vorrei sapere, piccola parentesi, questa classifica, cioè, è presa da... Da un sito femminile al top italiano. Questa ragazza. Ragazzi, io vi dico, poi aggiungete voi con calma, lontano da, abbiamo detto, oggetti contundenti e quant'altro. La numero 4, quindi questo, cioè quell'oggetto che lui ti concede di utilizzare anche se ha buon viso e cattivo gioco. Alla numero 3 fondamentale, cosa c'è di più bello di condividere un po' di arte assieme? La sua la sua adorabile bugia è: mi piacciono le commedie romantiche e non è possibile che ci sia un uomo a cui piacciono i film con Meg Ryan, lo dice anche questo sito. È rarissimo. Torniamo a parlare di drama coreani, ma soprattutto qualsiasi uomo ragazzi allora, abbiamo determinato, secondo questo sito non esistono uomini a cui piacciono i film con Meg Ryan, ma lui comunque te lo dice perché vuole condividere un momento con te, un momento che è la commedia romantica. Non succede mai perché a me non piacciono i film romantici, soprattutto a me non piacciono i film romantici. Non succede mai perché a me piacciono. No, anche a me ci piacciono i film romantici. Io devo dire che ho avuto dei periodi in cui ho visto anche di questi film strappalacrime, però tendenzialmente non è il mio genere. Ecco. Ma lo riuscivo a vedere. Un film con il mio lui, preferisco guardare un film che dici ho voglia di vedere un film. No, io invece sono contenta che comunque abbiamo i stessi gusti, cioè comunque che stiamo insieme sul divano. Sta ritrattando. Detto tra noi che non ci ascolta nessuno. Nessuno. Meg Ryan. Il film con Meg Ryan. In questo momento non me ne ricordo nessuno. Ah, boh. Cioè mi ricordo un dramma romantico. Cioè Posta per te, per esempio, mi piace. Simpatico. Ragazzi, è la vita che li accoppia e quindi è fantastico. Ma ah, lui piaceva il Titanic. No, questo lui. Non lui, cioè. No. Al tuo lui piaceva Titanic. Lei da sottolineare uno dei motivi per cui era ex. Ah, ex. Cioè addirittura l'hai cestinato perché aveva queste. Vedi. Nome su tutti, ultimo mondo cannibale. Quello è. C'è una passione. Ragazzi, siamo ormai nel punto alto comunque della classifica. Siamo arrivati senza feriti, senza contusi. Devono ancora prendere la parola loro a libertà. Perché poi noi lasceremo la parola, perché è giusto che sia così. Ragazzi, la numero 2. Qua sinceramente ho delle difficoltà a capire questa bugia. Che bello passare un po' di tempo con la suocera. Nulla annoia di più delle domeniche in famiglia, nulla annoia di più delle domeniche in famiglia e dei commenti taglienti di tua madre su come lui si veste. Ma la mamma è sempre la mamma e a lei tutto è concesso. Quindi la suocera, questo essere mitologico che abita la vostra vita di coppia, aspetta, arriveremo dopo perché loro hanno un ruolo decisivo in questa no decisiva. Comment. Sempre di quello che adorava Titanic, già da qua si è capito tutto, amico mio, mi dispiace, ma sei senza speranza. No, diciamo. Io non mi posso lamentare perché mia mamma è fantastica e Marco l'adora perché è simpaticissima, non perché mia mamma, ma perché è figa. Invece universalmente riconosciuto. È universalmente riconosciuto questo fatto, okay, di una mamma fighissima. Ok. E non rompe le palle, non fa domande, non stressa, non giudica, non critica. È a distanza, rispetta gli spazi, non è invasiva, non è invadente, proprio è non sembra neanche una suocera, no, proprio tipo opposto di suocera, di mamma opprimente, discreta al massimo, sì, sì, fa domande, no? E poi io ho un rapporto abbastanza tranquillo con i genitori di Marco, però anche noi molto a distanza, non, ragazzi, perché nessuno delle tre nelle nostre cose. Perché la suocera? Cioè, avete identificato il motivo per cui quell'elemento familiare è sempre disturbo? C'è secondo voi? C'è magari una zia, una cosa? No, perché sempre c'è la una suocera. Dinamica protettivo, ecco. Perché c'è una dinamica, secondo me, di competizione, di gelosia e di invidia. Ah, perché di diritto di possesso. Sì, di intanto andiamo alla numero uno. Ragazzi, la numero uno, la grande piccola bugia che ogni uomo ha detto alla donna, questa qua è veramente universale, bisogna ammetterlo, è multimediale, veramente si può usare in qualsiasi contesto, un passepartout per risolvere molte situazioni ed è mi dispiace perché ti ha fatto soffrire, hai discusso per ore con lui, stai continuando a cercare di farlo capire, ma lui spunta fuori queste due paroline magiche, mi dispiace, forse neanche è vero che gli dispiace, ma venirsi incontro eccetera a volte fa bene, quindi è una bugia, è che addolcisce, scambio, dai un po' di orgoglio per avere un po' di pace, certo, mi dispiace, cedi un po' del tuo orgoglio, queste due parole e ma poi stai scavando la cosa che non è assolutamente una cosa bella, no, allora, questa è una cosa bella, no. Ogni esperienza che ho avuto. Tu eri in quel divano. Sì, la testardaggine e l'orgoglio femminile sono qualcosa di allucinante per quello che io ho sempre vissuto, e io sono arrivato alla conclusione che a un certo punto l'unica via di uscita per me, oh, hai ragione tu, mi dispiace, vabbè, dai, lasciamo stare. No, basta lasciare il tempo di crescere la persona, perché si sa benissimo che la sfera femminile dei sentimenti è molto diversa da quella maschile. Io la vedo come una questione di orgoglio, la vedo molto spesso, l'ho sempre vista come una questione. No, niente, bisogna avere pazienza, aspettare che ci sia un minimo di maturità, di equilibrio tra sentimenti e raziocinio. E poi, questo mi dispiace detto così, te lo puoi dimenticare. No, molto da io guardo, non piace. Ragazzi, magari al massimo dopo, però un attimino, momento quando le altre si sono fermate e ti dice: beh, sai, forse avevi ragione. Mi spiace. Quella che ho detto, vai. Per me è un periodo particolare. Sono così stanco e stressato. Giustamente, i periodi particolari sono solo femminili. Ragazzi, è incredibile, questa frase pensavo di usarla solo io, invece. Ragazzi, la cena dei regini, c'è questo, segnate le vostre frasi, le vostre piccole scuse, piccole bugie che vi sono state utili per risolvere una situazione di coppia, oppure anche per spezzarla, perché magari si utilizza in ogni maniera. È stato un blocco caldissimo, adesso continueremo, quindi intanto vi salutiamo. Fare gesti inconsulti, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana con la cena dei regini. Guardateli adesso perché forse qualcuno morirà. Perché adesso ci sarà lo scannarsi con i donne. Un applauso, un saluto da i ragazzi con la cena dei regini. In banca settimana prossima. Ciao. Ciao.